perso nelle strade cobalto, brotalco, narici addosso il tuo tacco, io vesto matto Erasmo da Rotterdam, tuo orgasmo ti ho rotta dai tango di rosa sporcata di fango, la tua pelle, la guancia sapore di mango, amianto e narice piango, riarmo stanco, ricordo di cicatrice, poi lampo di luce di chi ti chiamava meretrice. Io non dico, lui dice feroce, eppure nessuno vede, nessun mi dice che sei cerbiato, ma ora nel mio piatto, punto e basta, imparato il salto fatto, ho scritto il tuo tutto, il mio tutto, il tutto di cultura nuova, Leonardo Mona Lì, oltre le inequità, espulso Akira contro Caneda, volare Gabbiano Livingston, vorrei te nella mia living room, sogno te sdraiata, abbandonata, beata mea Beatrice, io Dante, ma con un mare di contante, love, sex and flow, poeta del tutto, vince tutto, quando tutto sei te, osè, overdose, il tuo cuore, attonito, irto, miglior vini che ingurgito, frena il mio bere d'inferno, Cerbero, svegliami, il mio e il tuo che vorrebbero, diverrebbero i primi cani ruggenti in paradiso, pitbull, pitbull, Dionisio, si fa Apollinea l'anima danzante, il tuo fumo, vorrei solo far la penna che ho in mano, disegnare danza di un lago che ermetico segreto nel cuore, io e te non dico, io montagna Gensa, Mont Blanc scala e scalata già, l'Everest, tua calma, nuova poetica, sogno, tempio di cielo, nel vento in tempesta, scomparso con te il tempo, amando diamante che al tuo collo vorrei a te mettere, nel sempre promenade di te.